in questi ultimi minuti si sta diffondendo la notizia che in realtà sia stato tutto uno scherzo telefonico organizzato dalla trasmissione radiofonica La Zanzara. Ora staremo a vedere se così sarà, perché in questo caso non si sa se Renzi o Bersani, in ogni caso il Partito Democratico sarebbe vittima di uno scherzo piuttosto crudele. Per ora è tutto, a voi. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... No, sempre quelle cose che fanno così, sono inutili perché ripeto, è una mediocrità che non appartiene all'essere umano, mancano di sensibilità. E quando una persona, certe volte dico qualcuno di questi, mi viene in mente, dire, a proposito di diavolo. Qualcuno dirà che questo sfiora il razzismo. Ma che razzismo? Ma quale razzismo? Se uno è un cretino, non è, attenzione. Se dentro ci sono dei fetenti, il Parlamento è una fetenzia, non è che ci sono altri termini. È chiaro? Allora. Qual è il problema? Il problema è serio, perché non si può dire che questo è un troiaio. Che vuol dire troiaio? È questo, non c'è un altro termine. Sono indecenti per come parlano, come si muovono. Avrei bisogno di... E poi la frase chiave dell'intervista a questo ex agente di Noemi Letizia, quella sul sesso con Berlusconi quando era minorenne, Parenzo, quando era minorenne. Io voglio ricordare, bellissimo che? Bellissimo, bella intervista. Ma cosa bellissimo? Cosa bellissimo? L'intervista stupenda, profonda, piena di notizie. Profonda. Piena di notizie. Piena di notizie, no? Ma l'aveva già detto, l'aveva. Ma quale notizia? L'aveva già detto. Però vederlo in video. Comunque, lì, questo Chiesa Soprani dice che Berlusconi ha fatto sesso con Noemi, pare non sesso completo, quando era minorenne. Voglio ricordare che quando uno è consenziente, sopra i 16 anni non è reato, eh. Oh, giusto per ricordarlo. Vabbè, questo però non no, come no? La sostanza della bugia. No, ma il tema non è, comunque ne aspetta, parleremo. Aspetta. Fammi sentire. Quindi parlando mi disse Noemi di come conobbe il premier e mi spiegò che quando era minorenne a Roma ci fu un rapporto consenziente. Quando era minorenne. Neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Michele, che piacere! Mamma mia, che c'è là dentro? Una bomba! Bello. Ciao Michele, prima di tutto grazie, buonasera a tutti. Buonasera, no, grazie veramente. Ma che c'è qua dentro? La prima cosa vi voglio dire grazie. Grazie perché voi avete fatto un servizio al mio ragazzo meraviglioso. Io vi gli avete ridato vita, capito Michele? Fatti una risata, Michele. Allora, ti ho portato le mozzarelle, questo per ammazzarci. Queste sono calde, ma grazie. Queste delle soglie a salere. Allora, Subbattiato, volevo dire una cosa. Che è questa? Quando un politico, un attore, qualsiasi persona, in particolare un politico, dice una stronzata come quella che lui ha detto sulle troie in Parlamento, perché poi dice che è stato mal interpretato, in realtà non è vero, viene crocifisso. Invece qui viene esaltato, cioè gli si danno 3 ore in trasmissione per dire che il Parlamento è pieno di troie, di un puttanaio mai visto, cosa incredibile. Beh, infatti ha pagato per quello che ha detto, perché l'hanno fatto. Ma che ha pagato? Faceva i tour, andava a cantare in tour, ma che ha pagato? Dai, ma lui, infatti, su. Non aveva, l'ha detto ieri sera, non aveva nessun interesse di fare quella roba lì. Ma allora perché lo fai l'assessore? Me l'ha chiesto e gli avevo messo dei paletti su come l'avrei fatto. Renzi, poi... fammi sentire Renzi, che ieri sera Porta a Porta si è scatenato. Innanzitutto ci cita quando Berlusconi mi chiamò per andare ad Arcore, pensavo uno scherzo. Cerco un centro di gravità E quando Berlusconi mi chiamò, io ero convinto che fosse Fiorello che faceva l'imitazione, esattamente come ha fatto prima, e stavo per rispondere Fiore, ma dicendo anche parole diciamo un po' alla Fiorello. Mi ripresi a pelo perché mi passò il prefetto di Napoli che era con lui, ma cioè, Fiorello stava per farmi fare la gaffe, altro che la zanzara e la gaffe del... no, del secolo, esageriamo, insomma, allora, vediamo se fa l'imitazione paro paro. Non mi faccio mai cambiare idea. Poi se la prende con Bersani dicendo che meno parla di Telecom meglio è, sono arrivate molte telefonate da Roma, con Rosi Bindi sentiremo, contro Marini al Quirinale dicendo che è stato trombato al Senato in Abruzzo e dunque non può andare al Quirinale. Ora, Franco Marini è una persona molto simpatica, un sindacalista storico e un politico di lungo corso democristiano, una persona seria, dai. Persona molto seria, molto per bene, sono assolutamente certo, che è l'emblema di uno che alle ultime elezioni non è stato eletto. Gli italiani non lo hanno voluto senatore in Abruzzo. E dunque bocciatura, 800240024, è con noi Emilio Fede, direttore, buonasera. Carissimi amici, buonasera, vi sto seguendo con molto interesse, state replicando delle parti abbastanza curiose, ma siete comunque sempre molto bravi. Non so se adesso siete voi o sono i vice zanzarieri che fanno la voce. Lo scherzo, tutto finto ormai, tutto finto. Scusa un attimo, no. Direttore, io voglio chiederti una cosa, ma pare che sia andato dall'avvocato per la storia di questo Chiesa Soprani che ti mette in mezzo dicendo che hai conosciuto... No, questo Francesco Soprani è un povero figlio, assolutamente incapace di intendere di volere. Cioè un cretino, dici? Totale, io ho di lui un messaggio che c'è sulle agenzie, sulle agenzie, un messaggio che lui mi ha scritto ad aprile, dicendo che io sono un uomo per bene, che su che giù. Non è che poi io sono tirato in ballo particolarmente, ma lui è un bugiardo, cioè lui dice, è un fottuto bugiardo, lui dice che Rubi... Lui l'ha vista nel mio ufficio, Rubi in ufficio non lo conosce neanche in fotografia. Che cosa va cercando questo? Che capisco, cerca secondo te? Che cerca un po' di notorietà. Cioè denaro. Certamente sì, è un uomo rovinato che io ho aiutato. Ma da chi, da chi cerca denaro secondo te questo Chiesa Soprani? Certamente non da me. Perché tu non hai... parlando sono incontro con un calcio nel culo faccio girare, perché lui non può inventarsi le cose, lui dice di aver visto nel mio ufficio, basterebbe questo, aver detto che nel mio ufficio ha visto Rubi, non è vero niente. E poi tutto ma dice che ti conosce da 10 anni, dice che ti conosce, è vero, abbiamo avuto anche un rapporto gentile, perché ogni ti tanto portava le veline, le meteorine, portava il casting, si offriva, perché alcune delle sue come si chiama clienti, come si chiama pazienti, sì. So, eccetera, poi pazienti. Normalissimo il suo normale lavoro di agente, gli è andata male, è fallito, dispiace, pieno di debiti, dispiace, ma quando c'è stato un momento di sua necessità di dargli una mano, io l'ho fatto, ma cosa si inventa? Cioè gli hai dato dei soldi? No, io non ho mai dato soldi. Beh, perché non ce l'hai manco tu. No, io figuro che poi se ce l'ho non li do certamente a lui, ma comunque... E come l'hai aiutato, come l'hai aiutato? L'ho aiutato perché quando c'era qualcuna di queste sue ragazze, va bene che lui, come agente naturalmente, io per esempio attraverso lui ho conosciuto Elisabetta Gregoraci, oggi felice sposa del mio amico Briatore, cioè era uno che faceva la gente. Ma lui dice semplicemente che tu attraverso di te ha conosciuto Rubi. No, appunto, capito? Non è bugiardo, è un totale coglione, perché lo chiama al telefono? Ma lo denunci? Ma quando mai? Lui attraverso me, io Rubi, non l'ho mai conosciuto, se non vista quella volta ad Arcore. Cioè uno che è smentito da solo, perché uno che dice questa stronzata, va bene, un falso totale, non è vero. Ma che cos'è? Un pazzo? Un disperato? Ecco, esatto, forse la parola. Ma droga, c'entra di mezzo la droga, no? Non lo so, perché io non so neanche, non l'ho mai neanche vista. Certamente lo si vedeva ieri sera esagitato, oddio adesso mi ammazzano, se mi ammazzano io però voglio che l'Italia sappia, cioè capita a che punto siamo? Beh certo, uno che dice che voglio che l'Italia sappia, voglio che l'Italia sia un paese migliore. Ma che cosa deve sapere l'Italia? Ma secondo te è vera questa cosa che Berlusconi ha avuto un rapporto con Noemi quando era minorenne, sì o no? Ma per carità, io guarda, ci metterei la mano sul fuoco. Vabbè, mica stavi là, mica stavi lì presente. No, ma quando dire, ma non è possibile. Perché no? ma perché conoscendo la storia, conoscendo lui com'è, cioè, vuol dire, poi lui racconta cose per sentito dire. Io ho sentito dire che quelli della Zanzara svaligiano le stazioni di servizio. Ma che cazzo dice? Cioè, vuol dire, lui ha detto delle cazzate. Io, i miei amici della Zanzara, quando vanno a fare le gite, si fermano alla stazione di servizio e rubano. Ma lei l'ha visto rubare? No, ma l'ha sentito dire. Cioè, capito? Non va avanti. Ma scusa, Santoro ha fatto un'operazione criminale? Ha fatto un'operazione dal punto di vista professionale disonesta nei miei confronti, perché io gli ho mandato il messaggio che c'è sulle agenzie, che questo signore ha detto non sentirà mai che io possa dire una cosa contro lei, quando avesse bisogno io posso garantire la sua onestà, eccetera. Quindi io parlo... Cioè, Santoro è stato disonesto con te? Beh, direi, perché ho parlato con... Ma perché ha fatto questa intervista rispolverando questa storia dopo un sacco di tempo, secondo te? Ma perché adesso ci risiamo, c'è la voce che Berlusconi possa anche, non so, ambire al colle. Ma no, al colle mi sembra di... No, ma voglio dire, c'è un momento in cui dagli a Berlusconi. Questo anti-berlusconismo, fino a quando è fatto con intelligenza, la ragazza ieri sera, non so come si chiama, era molto divertente. Ma chi? Ah, quello sì, certo, quello assolutamente. Ma poi io ti chiamo, ho parlato con, come si chiama, con Ruotolo, sì. Ho detto scusa, abbi pazienza, guarda che questo signore scrive così, perlomeno... Ma Ruotolo, quando ci hai parlato con Ruotolo? Ieri sera, ieri mattina, sì. Dico scusa, almeno alla fine del servizio dite che è arrivata, non l'hanno dato per no, perché è chiaro che poi smentisci tutto. Vabbè, cioè, certo. C'era uno, dai, forse... Ma lo sai che Ruotolo era candidato con Ingroia, no? Signor Ruotolo. Sì, e quindi va anche lui in Valle d'Aosta? No, questo non lo so. Traffico, torniamo subito, direttore. 800-24-00-24, Milo Fede scatenato contro Chiesa Soprani. Sostanzialmente un coglione, giusto, direttore? No, giusto, sì, per... di più. Di più coglione che c'è? Testa di cazzo. Ah, beh, sì, forse più di coglione, sì. Traffico. La zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. È la zanzara danza. Io sono pietanza per la zanzara nella stanza. E poi se fosse Silvio Berlusconi, ecco, questa è una soluzione che presenta innumerevoli vantaggi. Finirebbero le polemiche sull'assenza di donne al Quirinale, perché lui ne porterebbe a Container. Avremmo il primo picchetto misto con i corazzieri con le tette. Tanto più che quella zanza nella stanza più non ronza. Siamo qui con Emilio Fede, molto arrabbiato per quello che si è sentito ieri Chez Santoro. Ma quindi? Beh, quindi che? Quindi è andato dall'avvocato, sì o no, signor Fede? È questo il punto. È andato dall'avvocato contro questo Chiesa Soprani. Ma no, ma guarda, non vale neanche la pena. Perché non vale la pena, non vale niente, poveretto. Ma io lo dico in senso anche simpatico, perché lui per un certo periodo era un agente che aveva un piccolo elemento. Ma poi scusa un attimo, a proposito di Noemi Letizia. Ma perché dice cose così nei dettagli proprio? Cioè, va bene, nei dettagli, che dice una cosa. Ma scusa, ma abbi pazienza. Beh, hanno guarda che non hanno mandato una parte sul rapporto sessuale che avrebbero avuto Noemi Letizia e Berlusconi, che non oggi, scusa, oggi allora, c'è sul fatto, oggi c'è sul fatto, sul fatto, allora, se leggi c'è l'integrità. No, io leggo il fatto, per carità, lo leggo certamente. Io mi rifiuto che Berlusconi possa avere fatto, aveva avuto rapporti sessuali di Noemi o non Noemi, ed abbia avuto. Ma che ne sai tu? Alla presenza di Francesco. No, alla presenza, no. Alla presenza, no, è Noemi che gliel'avrebbe raccontato. Ah, sì, certamente. Lui l'ha tenuto ben gelato, se l'è messa al petto, fra le tettone, lui, va bene, per non so per quanti anni, e poi improvvisamente sai, nel tono di questo ragazzo. Poi sì, parlo anche se vuoi con una certa simpatia, perché le persone che sono cadute, io vorrei aiutarle a rialzarsi, non a far la legna quando un albero è caduto. Cioè lui a un certo punto dice, perché gli hanno chiesto, ma perché io voglio che l'Italia sappia, quest'Italia i particolari dell'amore, ma tu pensa agli italiani. No, questo oggettivamente fame, è ridicolo, ma per favore, e stiamo ancora parlando di queste cazzate anche, e lui viene accolto. Ma se lo incontri per strada che fai? No, guarda, io penso che un giorno, lui è il suo compleanno qualche tempo fa, festeggiava, io non vado mai in discoteca, in una discoteca di Milano, mi sento la prego, detto, faccio la cortesia, sì, tu venga, almeno ho un nome, mi serve quello che e io mi sono prestato. Vabbè, ma che sei andato a fare, Emilio, che sei andato a fare in discoteca pure là? No, ma non vado, sto dicendo, c'era. Sei andato, vabbè, che so... Ma 5 minuti sono andato, ma non mi importa, io poi non frequento discoteca, vabbè, non mi trovo, non conto, ma la tua età. A proposito di questa cosa del sesso con le minorenni, però, diciamo la verità, non è che se uno fa sesso consenziente, ovviamente, con una ragazza che ha più di 16 anni sia un delitto, giusto, Emilio? No, no, ma guarda, io lo... Mai successo? Maniera, a te è mai successo? Ma per carità di Dio. E perché? Mai, perché? No, non mi succedeva, io figuro adesso, ma non ho mai avuto certamente, ma ci mancherebbe altro, mi vergognerei. Ma è vero che chiamavi Rubi la sicula? La sicula? Ma la sicula perché siciliana, ma io non mi ricordo se ho detto la sicula. Lui dice comunque, così, che la chiamavi la sicula. Ma non ha importanza. Ma è vero o no? È curiosa questa cosa, è divertente, la sicula. Mi disse no, che l'ho mai chiamata la sicula perché è un bel pseudonimo. Non ho mai parlato con lei, per la verità, l'ho vista quella volta lì. Vabbè, non è vero che la chiamavi la sicula. No, ma assolutamente, lui si è inventato tutto. Guarda, ti dico, quando uno parte con la grossa menzogna, sì, ho conosciuto Rubi nell'ufficio di mia fede, vuol dire che è un bugiardo. Vabbè. Perché, no, ma ti assicuro, ma poi è grave, dai, su. Tu sei pronto a giurarlo sui tuoi figli, come Berlusconi? Ma è vero che... Assolutamente, no, ma io sono pronto a chiapparlo per il collo. Dimmi di fronte a me, tu hai conosciuto Rubi nel mio ufficio, ma manca a Milano 2, ma manco fuori sull'esterno, non l'ho mai vista, cioè, capito? Vabbè, scusa un attimo, ma è vero che il numero della nuova Miletizia ce l'hai avuto da te? Ma io questo non mi ricordo che abbia avuto il numero fra quelle che forse erano presentate per i casting. Ma gliel'hai dato? Niente. No, non vuol dire niente. No, ma gliela... non credo. Ma io non credo che gli dato, vabbè, è un particolare. Basta, basta con questa storia. Finiamola. No, ma aspetta, io voglio capire il candidato di Emilio Fede al Quirinale qual è? Il candidato di Emilio Fede al Quirinale qual è? Guarda, avrei voluto perché. Lo avrei voluto con tutte le mie forze, anche se devo dire che poi in questo periodo di gratitudine Berlusconi, certamente. Adesso è un massacro nei confronti di Berlusconi, vedi anche. Ma perché noi dicevi in questo periodo gratitudine? Perché in questo periodo. Voglio dire, scusami, ti ha abbandonato. Io sono stato sollevato dal pesantissimo incarico di diritto del TG4, da me indegnamente diretto. No. Sì. Io non sono stato candidato, allora? Candidato alle elezioni, candidato al Senato perché. È stato in grado, dice, è stato in grado nei tuoi confronti. No, ma lui. Ma tu l'hai detto adesso, nonostante l'ingratitudine, vorrei. Detto, non è che abbia particolari, come si dice in questo momento, particolari motivi di gratitudine. Ah, beh. Nel senso, ecco, certo, l'ho avuto per 25 anni. Insomma, Berlusconi, però, non mi sembra un nome possibile. Chi metteresti lì, cioè, come capo dello Stato? Beh, guarda, io ti dico. Fai un bel endorsement. D'Alema. Ecco, bravo. Oh. Sai perché? Perché quando ci fu l'elezione di Napolitano, il nome in concorrenza. Come no? Era D'Alema. Era D'Alema. E quando qualcuno mi ha chiesto che ne pensi dell'uno e dell'altro, io ho detto, ma io metterei D'Alema. Sì. Vabbè, D'Alema è simpatico. Ma anche adesso lo metteresti? Anche adesso? Sì, assolutamente sì. Però è soprattutto perché garantisce un po' Berlusconi più degli altri. No, non credo, cioè, perché. Però Berlusconi si sente sicuro con D'Alema, Emilio, di la verità. Io ti posso dire una cosa: che qua io ho intervistato qualche volta D'Alema, con lui ho avuto sempre dei rapporti di stima. Mi vanto di dire reciproca. Addirittura. D'Alema è una persona. Non mi dispiacerebbe in seconda posizione. Senti, ma siccome dobbiamo chiudere, ma perché non fai una telefonatina al signor Cairo per la 7, che vi conosce da tanto tempo? Magari là stanno cercando delle persone, magari. Ti posso dire, ci scappa qualcosa. Io intanto ero in un rapporto con Cairo per scrivere un libro sulla storia del giornalismo. Perché no? Ma io per il momento sto così, poi decideranno loro. Tanto adesso il TG4 senza di me va meglio. Gli ascolti sono saliti, tutti sono bravi, tranne io. Però scusami Emilio, adesso basta con sto contratto che è pure insomma copioso con Mediaset, no, chiudi qua chiudiamolo sto contratto. Certo, il contratto io ce l'ho. Se non escludo che fra un mese o due, altrimenti sto aspettando. Aspetta, devo chiudere. Ti chiamo dopo. Devo chiudere del processo, lo so. Ti chiamo dopo, ti chiamo dopo. C'è la pubblicità, lo sai quanto conta. Sono come zanzare, queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città. È la serata degli stronzi, perché Emilio Fede ha dato dello stronzo a quel soprani, come si chiama? Direttore? Sì, intanto io vorrei diramare un comunicato che siete micidiali. Ma a noi non è successo nulla, stavolta siamo totalmente innocenti, perché ne, non è che abbiamo attribuito a Tosi la parola stronzo detta a Bossi, nella maniera più assoluta, non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto. No, ma io sto scherzando, dico Emilio Fede dirama un comunicato per confermare che quello là è un coglione, Don Bossi, Don Tosi. Soprani, là, quel Soprani, Sopraventoli, come si chiama? Sopravento, Sopravento, dai. Sopravento, senti, ti faccio ascoltare questa cosa per divertirti. Ilona Staller. Ilona Staller, ieri grande protagonista alla Zanzara, ha fatto sesso con più di 2000 persone, forse 3000, forse 4000, senti. Quando ero porno diva di un trentina di anni fa, è ovvio che ho fatto sesso con svariati donne e uomini, però insomma non l'ho mai contati, saranno anche oltre 2000 e passa. E poi, mica è finita qui, Ilona, la mitica Ilona, l'autoerotismo, non faccio sesso da 2 anni. Senti, l'autoerotismo ha il suo fascino, credimi. Domani passeranno gli spettri di oggi qui sulla strada, ma intanto viviamo gli spettri di chi ci vive e che va così gonfiando. Scusa direttore, non per entrare nelle tue cose intime, ma tu da quanto tempo hai che non fai sesso? Non faccio autoerotismo da 85 anni. Ma che non hai mai fatto autoerotismo? Ma mai fatto autoerotismo? Io l'autoerotismo tutti i giorni, mi alzo al mattino e faccio autoerotismo, faccio ginnastica autoerotismo, come si chiama? Erotismo, auto. No, vabbè, dai direttore, no. Da quant'è che non fai sesso? Da quant'è? Aspetta. Dunque, esattamente l'ultima volta il 3 gennaio del 1795. Vabbè, ma dai, no, su, ma no, dai, ci stai coglionando adesso, dai. No, ma dai, visto che parlavamo di questo. Ma questa è una grande famiglia, le cose personali si possono anche raccontare. Sì, ho capito, le cose personali si possono raccontare, ma quando poi c'è un signore, chiamiamolo così, sì, che ti permette di raccontare ciò che ti sarebbe stato raccontato. Ma tu pensa alla gente ieri sera, milioni di italiani che stanno lì a dire oddio, come avrà fatto l'amore Berlusconi, che ci frega Michele, ma pare pane, che non sia stato la pasta, non sia stato secca, no, non mangiamo stasera, non importa, ma dovete sapere come fosse, ma dai, ma non pare che non sia stato un rapporto completo, in che senso? Pare che non sia stato. No, pare che non sia stato un rapporto di quelli completi, quello si chiamano Emi Letizia. Ma perché tu escludi che Berlusconi abbia avuto un rapporto sessuale con la signora Noemi Letizia? Scusa. Di qualità, con la? Con la signora Noemi Letizia. Guarda, io mi giocherei tutto quello che mi è rimasto, che è poco per la verità. Ma anche le palle, anche le palle. Sì, appunto, di quello parlavo io. Ma per carità, ma poi scusa, voi siete anche qualche volta intelligenti, no? Sempre qualche volta, sempre, qualche volta. No, dai, cioè, però, ma vi pare possibile che ci sia una trasmissione intelligente? Perché Santoro. Ma allora manda a fare in culo Santoro! No, Santoro, che c'entra? Santoro, io lo stimo, vorrei che fosse un travaglio come dico io, non quello così erotico, un travaglio che ci sia, cioè non il travaglio del parto. Dico, cioè vuol dire, vabbè, si divertono così, lasciamo divertire, ma una trasmissione non dà spazio a uno che racconta cose che ho sentito dire e soprattutto non offende gli italiani in un momento in cui gli italiani gli girano i coglioni perché non hanno come mangiare, milioni di italiani, di sapere come la ragazza abbia raccontato. Vabbè, ma dai, è andata in onda alla fine, dai, su. Riguarda un ex capo del governo, no? Riguarda, è andata in onda alla fine della trasmissione, non è che hanno fatto tutta la trasmissione su Noemi Letizia, dai, su, adesso. Cioè, ma dai, è andato avanti per mezz'ora questa storia qui, voi dite che ne ha tagliato una parte. Sì, no, ma una parte molto hot, una parte molto molto hot, devo dirti la verità. Di che cosa per sentito dire? Per sentito dire, certo. Fa autoerotismo attaccato a una pianta di cicale, io che faccio? Voi dite siete sentito. Allora, ho capito. Senti, ma direttore, io sono curioso di sapere una cosa, ma tu, il vizio più grande che hai qual è? Il gioco. No, non più. Quanto hai perso in tutto al gioco? In tutta la tua vita? La mia vita, fatto in lira italiana, almeno 300 lire. No, ma dai, su, quanto in tutto? Non interessa questo. No, mi interessa a me, Emilio. Quanto in tutto? In tutto, voglio dire. Io, sai cos'è? Non so, 5 milioni di euro, l'hai persi? 5 milioni di euro. Io so, arrivato a cercare subito, vediamo se ne ho passati 2 milioni e mezzo con la valigetta. Un ragazza, milione, un milione, l'hai perso un milione di euro? No, ma almeno adesso 2 miliardi, dai. E vabbè, perché non no? Tutta la mia vita, ma neanche per soldi. Ma io sono mica pazzo. Vabbè, ma quanti soldi hai perso? No, 300 mila euro, 400? Se non vi fa piacere, io vi dico che tutto il vizio della mia vita, quello incallito, è stata la mia professione. Vabbè, ma quello lo sappiamo, vizio. D'accordo, bravo. Il giornale, vuoi sapere se mi manca il telegiornale? Ma no, ma questo lo sappiamo, dai. Ma certo che ti manca. E quello è stato il mio vizio. Certo che ti manca, è chiaro. Soffri come un cane, soffri come un cane, lo so. Insomma, dire proprio soffrire come un cane, no, diciamo come un bassotto. Dai, io voglio sapere adesso tutto il giorno. Io voglio sapere questa cosa, Emilio, ma quanti soldi hai perso per il gioco? Io mi sono veramente curioso. Guarda, no, ma ti assicuro, io non ho mai fatto i conti, perché uno però tanti, tanti. No, ma non no, perché guarda, dunque, allora, da 30 anni non vado a San Vincenzo. Da 35 anni non vado a Campione, da 40 anni non vado a Venezia. Vabbè, dove hai perso questi giochi allora? Ma sì, soldi. Smesso, sono andato, dico la verità, in un anno, due volte a Monte Carlo e basta. Io ho smesso perché. Vabbè, ma quante, perché avevi perso troppi soldi, hai smesso. Perché ho pensato che buttare via i soldi da me guadagnati con grande sacrificio, ma con grande gioia. Vabbè, certo. Sarebbe stata una cosa disonesta. Questo sì. Però scusa, devo tornare a che cosa? A Soprani ancora. Ma non si può dare voce a uno che dice una bugia colossale. Lui non ha mai visto Rubina. Se ha detto una bugia. Ma non è il caso, cosa me ne frega? Guarda, ti posso dire, l'ho già detto prima. Io l'ho conosciuto nel momento in cui lui faceva la gente anche serio, aveva personaggi. Poi, scusa, ma Quirinale, però adesso l'hai detto, abbiamo già detto su Soprani tutto lo scibile umano. Ma non ci vorrebbe una bella gnocca al Quirinale, una bella donna. L'ex ministro della sanità, l'attuale, la Bindi. La Bindi sarebbe una battuta cretina, non la faccio. Chi c'è? C'è una ministra, sai che bella, la Moretti, beh, al Quirinale però no. Ti piace pure anche a te piace la Moretti. Vedi, anche a te, perché si vede che piace anche a voi. È bella. La Carfagna è un po' dimagrita. Insomma, voglio dire, non lo so. La Bonino la stimo. Sì, le voglio molto bene. Ho una grande considerazione. Direttore, ti devo lasciare. A presto. Perché peccato, mi hai lasciato così sull'autostrada. Lo so, dopo ti richiamiamo, casomai. Un abbraccio, dove dai. Stai andando? Ciao, Borsa, ragazzi. Borsa, dove stai andando? Borsa. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. È laica, la matriosca è laica. Secondo me le Quirinali le ha vinte Berlusconi, perciò le hanno annullate. Ciao Zescu. Silvio Berlusconi è una persona di immacolata onestà personale e la prova sono gli integerrimi giudici della Cassazione che lo hanno costantemente assolto da tutte le accuse fabbricate per anni, esattamente da quando è entrato nella vita politica italiana. Questo era il mitico Rotondi. Simona Vicari, che è una senatrice del PDL, Berlusconi più perseguitato nell'umanità. Sappiamo perfettamente che Berlusconi è l'uomo più perseguitato dell'umanità dalla giustizia. Dell'umanità. Sì. Non c'è persona, non politica, dell'umanità, non dico dell'Italia. Dell'umanità, non dico dell'Italia, dell'umanità intera, ma la frase del giorno è anche quella di Tosi da noi ieri, dicendo: voi telefonereste ad uno stronzo? Ripeto, a me era chiarissimo sin dall'inizio, non si riferiva, cioè non dava dello stronzo a Bossi, ma ricordava il fatto che Bossi una volta lì diede dello stronzo. So che è difficile da capire perché tutti si danno dello stronzo oggi. Comunque, Bossi diede dello stronzo a Tosi e Tosi ricorda questa cosa. Non ci sentiamo spesso. Bah, un anno no, perché magari ci si vede lì in Bellerio, però diciamo non è che ci si sta spesso. Scusi, voi telefonereste a uno stronzo, no? Scusi. Siamo qui 800 24 00 24. Nando da Perugia, buonasera, dica. Buonasera. Dica, vada. Ho visto Rosse nuta tosse. Senta, bisogna essere un po' comprensivi. Di quel Berlusco ha superato i 75 anni, ha avuto problemi alle vie urinarie. Ragazzi, c'è rimasto poco tempo e allora? Per fare l'amore. E dunque? Bisogna comprenderlo, c'è rimasto poco tempo, fa bene anche a scegliere le giovani. Come fa? Va con quelle vecchie, ragazzi, ma dovete capire. Ho capito, però quando le cose vengono fuori è un casino, però, caro Nando, non è che facesse il passante all'epoca. Cioè, quando le cose vengono fuori comunque è un casino. Ma che viene fuori? Ma gli dovete dare la caccia quando evade il fisco, quando commette reati fiscali, ma per ste stupidate la procura di Milano si mobilita, manda i medici, ma che stiamo scherzando? I quelli del PD si credono superiori, loro hanno un'aureola sopra la testa. Dico, lei al processo di Milano manca la parte lesa, dov'è la ragazza violentata, sodomizzata? Io lì ho visto apparire in televisione una valchiria, una via della bellezza. Ma che ne tra i due? Tra i due il violentato è lui. Se ci fosse stato un rapporto tra i due, ma il tema non è questa cosa qui, ma cosa fare? No, no, su questo ha perfettamente Terry, su questo ha perfettamente ragione Nando. Voi siete due ragazzi di gamba entrambi, capite le cosce al volo, siete scusi molto... Derrick. No, su questo ha ragione Derrick, Nando, su questo rende, ma si rende conto i signori Rossi, il signor Bersani ha lottato per fare i corretti come se fosse state le vere elezioni. Ha impiegato più energie nelle primarie che alle elezioni. Secondo me lui una volta vinte le primarie si sentiva. Vabbè, questa è un'altra cosa. Grazie. Quindi, grazie. Ma Falda da Bologna, stai zitto, ma Falda da Bologna. Buonasera, signor Crociani. Sì. Io sono la compagna di Oscar. Sa quello dei ghiaccioli di ieri sera? Ma quello dei ghiaccioli con l'urina. Quello che beve l'urina. Quello. Ma Falda, ma è vero o non è vero? Io non sono per niente d'accordo con sta cosa. Beh, ho capito, ma li ha fatti sti ghiaccioli con l'urina o no? Ma certo che li ha fatti. Ho capito, voleva metterli in freezer. Invece? Ma non c'è alito. No. Ma io li ho fatti mettere nel freezer dell'ufficio. Ah, li ha ma ci mancherebbe altro. Ma scusi, ma li voleva anche glieli voleva offrire? No, sì, no, beh, insomma, sì ho provato. No? Ma io non voglio. Beh, anche perché non sono d'accordo. Beh, questo lo capisco, però ma io lo dica a lui, però ci chiama noi, capisco che ormai è un dramma nazionale quelli che vengono da BB, però scusi, ma Falda, dico perché voi invitate delle persone strane, degli ospiti deleteri. Beh, deleteri, adesso delle famiglie, questo un po' è vero. Nelle persone sì, malate, dice lei, malate. Questo un po' è vero. No, questo è vero assolutamente, tant'è che ci hanno accusato di invitare dei mostri, dei pervertiti, il signor Lerner ci ha accusato dall'alto della sua scienza, questo dire, è vero. Questo che beve, questo che chiama, anche la moglie è d'accordo, evidentemente, pervertito non lo no, so, non è d'accordo. Qualche stranezza ci sarà, però. Non è no. D'accordo. Scusi, ricapitoliamo la situazione. Allora, Oscar ci ha chiamato ieri dicendo che dopo le lezioni di urinoterapia qui tenute dal professor Vanoli, tenute qui in questa sede, ha cominciato a fare i ghiaccioli con il piscio, giusto? Signora Mafalda, lei e sua moglie gli ha proibito di tenere questi ghiaccioli nel frigo di casa. Anche se poi in realtà i ghiaccioli nel frigo di casa non è che fanno niente di particolare. Ma puzzavano. Però non è che mi piaccia molto. Ma puzzavano sti ghiaccioli? Puzzavano sti ghiaccioli? No, perché poi col freddo. Però non voglio mica saperlo. No, li tengo in ufficio. Ma gliele ha offerti? Ha detto prenda anche lei, succhi pure lei. Gli offerti hanno detto che fanno tanto bene, che fanno passare l'herpes. Però. Quando lui torna a casa, io gli faccio trovare un bel bicchiere di acqua, aceto, un bel gargarismo e poi un bacino. Però prima il gargarismo. Prima no. Prima il gargarismo, no. la cura, la depurazione, sì. Diciamo, no? Sì, poi dopo la depurazione. Mamma mia, che situazione, quello, che situazione drammatica, che situazione. Famiglia, e dopo un bacino. Che situazione drammatica, guarda, che situazione. Che tutta colpa nostra, lei ha ragione. Però è contento, tu. È contento, sarà contento lui. Contento lui che ha fatto i ghiaccioli. Poi insomma, poi funziona, bravo, cioè voglio dire, non ha avuto dei risultati buoni. Vabbè, grazie. Ma dove, in che campo risultati buoni? Non capisco. In che campo? In un campo, in una stanza. Vabbè, grazie Mafalda. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. C'è la smentita di Bossi, eh. La smentita di Bossi, pare che non ci sia nessun notaio, pare che non ci sia nessun nuovo partito, vabbè, ma insomma. Andrea da Torino, buonasera. Buonasera a tutti. Vada. Allora, io bevo normalmente comunque. Vabbè. Volevo dire una cosa. Secondo me, parlando di legge elettorale, si è dato tanto contro questa legge elettorale. Ma secondo me la colpa non è tanto della legge elettorale, perché a parte il fatto che l'altra volta la legge elettorale ha funzionato, poi dopo si sono divisi, ma è un altro conto. Se noi mettiamo i partiti che fanno i partitini tipo Giannino, Ingroia, così, certo che la legge elettorale fa schifo, ma loro sapevano già di fare un partito che non avrebbe avuto quasi nessuna possibilità di andare in Parlamento e quindi rubano dei voti. Quindi la colpa è dei politici, che poi non si riescono a unire. Il problema è uno solo, Andrea. La seconda cosa è la colpa è degli elettori. Perché gli elettori. Ma che la colpa non è mai degli elettori, la colpa non è mai. Ma la colpa degli elettori di come votano, di come votano. Ma che c'entra? Perché la colpa è di chi. Scusi, se tu voti Giannino. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Non è che uno deve votare per forza i partiti più grandi. Il problema è che bisogna tirare. No, aspetti un attimo. Allora, se c'è questa legge elettorale, se c'è questa legge elettorale, non c'entra i partiti grandi. Ma che c'entra? I partiti piccoli cercano di prendere il 4% per andare in Parlamento. Non è che. Giannino pensava di prendere il 4% e chi votava Giannino pensava che arrivava al 4%. Prima dello scandalo. Ma no. Vabbè, Andrea, gli italiani hanno sempre ragione quando votano. Il punto è un altro, che bisogna. Ma io sono d'accordo che gli italiani. E allora basta. Non si devono lamentare. Si azzittisca un attimo. Stia zitto un attimo. Il problema è che bisogna tirare giù la Claire così al Senato. Chiudere, finita con la targhetta Fondazione Senato, non serve a nulla. Ma sono d'accordo. E allora basta, basterebbe questo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma e siamo qui con Giancarlo Galan, deputato del PDL. Buonasera. Eccomi qua, buonasera. Come andiamo? Va bene, bene. Ma qui nella Lega se ne danno i suoi amici della Lega se ne danno di santa ragione. Ha sentito quello che succede, sì. Di male in peggio, però ti meraviglierò, ma mi dispiace. Perché? Così, perché quando si litiga al proprio interno, insomma, la Lega ha avuto momenti buoni, gloriosi, ha suscitato speranze, insomma, mi dispiace. Vabbè, adesso poi della disfatta della Lega in Veneto non è che ti dispiace troppo, Giancarlo, su, diciamo la verità. Vabbè, insomma, però lo dico con sincerità, veder finire così, quello che per tanti è stato un sogno, insomma. Perché è finita, secondo te, un po' la Lega, Sì. Secondo me sì. È finita. Quando si arriva a questi punti non si ritorna più su. È finita. Perché non l'hanno messo tra i. Eppure incredibilmente ci sono tre regioni, ma è una cosa incredibile da un certo punto di vista. Un partito che è in declino, che però ha ancora il governo di tre regioni. Cioè regioni? Beh, tre regioni, il Piemonte. Sì, no, appunto, ma Piemonte, che regioni, nel senso, regioni, sì. Per dire che peso hanno, sono tre regioni che fanno 15 milioni qui di abitanti. Avete sbagliato tutto, avete sbagliato non tutto. Non farmelo dire, l'ho già detto troppe volte. Avete sbagliato tutto. Tre regioni in mano alla Lega, una cosa con un partito morente o no, sbaglio? Beh, quando abbiamo dato il Veneto e il Piemonte era in buona forma e poi la politica è fatta anche di queste cose. Però io sono sicuro che lei, proprio in una parte piccola del suo cuore, magari quando finisce Zaia un pensierino ce lo fa. No, questo non deve mai tornare, no, sarebbe un errore tornare. No, No, io lo farei come partito, questo sì. Vabbè, quello è un altro discorso. Vabbè, qualcun altro, no, io no, assolutamente. Mai, no. Mai più governatore del Veneto, no, mai più. No, bisogna pensare ad altro, fare cose nuove. Sindaco di Padova, cosa fa? Ma che sindaco di Padova, adesso sta in Parlamento. Ci sono tante cose da fare a questo punto. Intanto abbiamo rimesso a posto la situazione. Intanto abbiamo rimesso a posto la situazione finanziaria, caro Galan, la situazione finanziaria. Lei è tornata in Parlamento, finalmente c'era uno stipendio. La barca la può tenere. Finalmente lo stipendio, la barca la possiamo tenere, no? Non è più il caso di venderlo, sbaglio. Se qualcuno la compra è sempre in vendita. È sempre, però adesso un po' la situazione finanziaria può ristrutturare il bagno. L'abbiamo tenuta in piedi un po' la situazione finanziaria, o sbaglio? Staremo a vedere, vediamo. vediamo come va. No, però voglio dire, adesso c'è un introito almeno, no? Voi tanto... Non ho mai avuto queste preoccupazioni. No, però per un... mi ricordo per un periodo si era un po' preoccupato, diciamo. Ovvio. No, ma non sono preoccupato per la situazione politica. Vabbè, ma quello siamo preoccupati, siamo preoccupati tutti. Non sono preoccupato, qualcosa si trova sempre da fare, se si ha voglia. Sì, quello sì, però adesso lo stipendio del Parlamento un po' fa piacere, diciamo, non è che fa, non è che disturba, diciamo, no? Beh, disturba mai. Disturba mai. Non è che le dà il 50% al partito, no? A te disturberebbe, no? No, assolutamente, assolutamente. No, tra l'altro voi non date manco i soldi al partito, mi sembra, no? Non lo so, credo di sì, una parte, credo che sia sì, ma ci sono... però non sono ancora sicuro. Ci sono un sacco di gente, c'è un sacco di gente che non ha mai pagato lì nel PDL. C'è un sacco di gente che non paga mai in nessun posto, in tanti posti capita questo. C'è gente che non paga neanche al bar della Camera, per carità. Perché? Tutto si vede. Come la gente che non paga al bar della Camera? Perché sei mai andato... Cioè alla buvetta della Camera qualcuno fa il furbo? Sì, qualcuno. Ma perché non controllano? Cioè uno prende si fa dare il caffè e non passa la cassa, dice lei. Ecco, ma capita anche fuori. No, sì, d'accordo, però la Camera... Non è che la Camera, che siano tanto diversi da quelli che stanno fuori. Ho capito, però se lei ci dice al bar della Camera c'è un sacco di gente che passa lì, prende il caffè o altro e poi manco passa dalla cassa, la cosa, insomma, no? Diciamo che qualcuno c'è. Qualcuno c'è che fa il furbetto. Qualcuno c'è stato, io ci sono stato così poche volte. Beh, però camera. Comunque qualcuno c'è, dice lei. Faremo un'inchiesta su questo perché è interessante come cosa. Comunque, Galan recentemente ha dichiarato, caro Parenzo, ma l'aveva già detto da noi, questi delle Iene ogni tanto sono brevissimi, però scoprono l'acqua calda, che ha provato una volta una canna in vita sua. Recentemente l'ha detto lei, però l'aveva già detto da noi, si ricorda Galan? Sì, ho detto, mi sono confessato anche di più, ho detto due volte. Ah, due volte? Due volte, sì, due è andata volte. Malissimo. Ma che età era? Una avrò avuto, non giovanissimo, avrò avuto più di 20 anni, 24, 25, credo, adesso non sarei... E la seconda volta? Ma è 25 sempre a quell'età là, insomma, intorno a quell'età. Ma che cos'era? Marijuana, hashish, erba, cos'era? Ma chi se lo ricorda bene? Una cannetta che girava così, insomma. A cui io ho dato un tiro in tutto e sono stato malissimo con uno, figurarsi. E poi basta. Però la legalizziamo sta droga leggera o no? Sì, io sono favorevole a questo. Oh, ma lei è favorevole anche dei coffee shop? Ma io ci sono stato, non mi sono piaciuti un granché, però... Ma che c'è stato a fare, scusi? Secondo me non avrebbero nessun successo in Italia. Quello è un altro discorso. Quello poi un'altra cosa, no, non è che mi piaccia, non mi piace questa idea del coffee shop, così non vabbè, mi dove, se lei vuole legalizzare, dove la vendiamo? Ste canne dove le vendiamo? Al bar, dove le vendiamo? Le venderemo in tabaccheria. In tabaccheria, sì, questa è una buona idea. No, non ci ho mai pensato, ma se in tabaccheria le venderemo. Sì, ma in pacchetti, no, Parenzo? Come funziona? Uno va in tabaccheria. No, ma sei tu l'esperto. Parenzo, sei tu che ti fai le canne. Diciamola tutto, ogni tanto ti fai le canne. Beh, no, ma adesso è tantissimo. Scusa. No, ma no, scusa, siccome tu sei sempre quello che vuoi far confessare ai politici delle cose, e siamo d'accordo. Una volta che ti dico, tu ti fai ogni tanto delle canne, ammettilo, confessalo, ogni tanto fai girare la canna. Ma ho già detto, adesso purtroppo sono tanti mesi che non... Ma non è vero, anche questa cosa non è vera. Lo direi. Però voglio dire, voglio capire come funzionerebbe il meccanismo della mente del grande Galan. Cioè, uno entra lì al bar e dice, scusi, mi dà per cortesia 2 grammi di Maria. Ma no, 2 grammi, adesso il meccanismo Galan non lo conosce bene. No, non lo conosco, ma non so come si faccia negli altri paesi. Però bisogna legalizzare, questo non c'è dubbio. Io sono d'accordo con lei al 100%, applauso per Galan, facciamo partire l'applauso subito, non c'è l'applauso, che cavolo, preparatelo sto applauso ogni tanto, no? Siamo sempre qui a fare sangue e merda, come diceva Formica, la politica, una volta che ci vuole l'applauso, ci vuole l'applauso. Vabbè, comunque lei è un grande liberale perché legalizzazione della prostituzione, mi sembra, no? O no? Sì, qualcosa di... lì non si tratta tanto di legalizzare, si tratta di regolamentare, Beh, quartieri a luci rosse, no? Quartieri a luci rosse. O questo, insomma, non la criminalizzazione. Vabbè, criminalizzazione sempre di quello che è legato alla storia dell'uomo, che non si cancellerà mai, insomma. Beh, appunto, una forma di, che vogliamo dire, le case chiuse? Una forma di legalizzazione, non lo so, dopo si può discutere, sai, le modalità sono... Sì, no, certo, è vero, una forma di legalizzazione. È il principio che si deve... Assolutamente, affermare. Ma lei è mai andato? Ha mai frequentato? Dai, che domande. Perché? Perché, perché una volta uno è stato, perché se uno vuole la legalizzazione magari è capitato nella vita, io devo dire la verità, sì, è vero, lo confesso, una volta, ecco, non in Italia, sono andati in altri paesi, in altri paesi, mai, io sì, in altri paesi, Parenzo mai perché è un bigotto, solito bigottismo ebraico. No, no, è bigottismo normale. Normale, in parte ebraico. Non ho mai avuto bisogno di pagare, però. Ma che c'entra questa cosa banale? Uno fa anche per provare. Io sono andato, sì, una volta in Svizzera, una volta. Per provare, non è che uno si dà una martellata sulla testa. No, no, signor Galan? Vabbè, confesso anche questo. Confessi, confessi. Ma sì, dove? L'ho fatto. Ma dove tutto ciò? Ma in Italia? In Italia. Spesso nella mia vita. In Italia, in Italia. Sì. In Italia. Ah, vabbè, qua era giovane? Molto giovane. Molto giovane. Troppo giovane? Troppo, no, troppo. No, non troppo giovane, no, giusto. Ma che esperienza fu? Drammatica? No, per niente. Per anzi. Niente. Anzi, soddisfacente, diciamo. Tutto sommato, così divertente. Ma italianische? Italianische, come si dice in tedesco? Italiano o stranger, straniera? Ah, così, italiana, italiana. Italiana. Allora, italiana. Quando ero giovane, io guarda che sono passati tanti. Mica è vecchio anni. Lei, signor Galan. Non è mica italiane. Ma non è mica vecchio lei, cioè. Beh, ho 56 anni. Vabbè, 56. Vecchio, ma no. Capito, le case chiuse erano già chiuse, le case chiuse, scusate il gioco di parole, cioè erano già, cioè fu una roba, ma mica per Merlin, ma mica per strada le fece così per strada con la macchina, come no. Credo che la legge Merlin sia molto prima. Appunto, dico. Ma non me lo ricordo, non so, ma io non ne ho sentito parlare se non leggendo i no. libri. Come però la sua esperienza, no, la sua, sì, sicuro ai miei tempi. Ma dove, in albergo o in macchina? Come andava? Ma dai. E vabbè, basta, non parlo più di questa cosa. Ma no. In barca. Ma no, vabbè. Che barca. No, vabbè, in barca. Dai, che differenza fa? Beh, no, è interessante, beh, sapere. Bello però, perché la macchina basta, la prossima volta mento e dico di no. No, adesso non voglio indagare più di tanto. No, infatti, è già non è bella questa confessione, Galan, due punti. Allora, aspetta, attenzione, c'è una notizia. Sgarbi all'ultima parola. Grilli ha mandato in Parlamento gente che neanche conosce, a meno Berlusconi, le sue puttane le conosceva. Vabbè, ma la Merlino mi ha annunciato adesso. Sgarbi ha detto una cosa clamorosa su coso, su Berlusconi. Grillo ha mandato in Parlamento gente che neanche conosce, almeno Berlusconi le sue puttane le conosceva. Ma questa l'aveva già detta mille volte. Merlino, sveglia! Merlino, si chiama Merlino, sveglia! L'ha detta mille volte. Lei crede a questa storia di Noemi Letizia, signor Galan? No. No, No. Ma scusi, è legale andare a letto con una minorenne, tra l'altro, se consenziente superiore ai 16 anni? Tra l'altro, no. Non lo so. Sì, dicono così. Sì, non lo so, è talmente arretrata la nostra legislazione in questa materia che non lo so, francamente non me lo ricordo. Se lei toglierebbe... Anche questo l'ho studiato 35 anni fa in me. Sì, sì. Vabbè, parliamo di politica adesso, dopo la pubblicità. 800 24 00 24, il Quirinale. Galan, lei mi ha deluso molto con questa cosa della Bonino, devo dire la verità. Adesso vediamo, tra poco. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana io sono stanco como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno, no le importa mucho si no prendo sueno, no le importa mucho si no prendo sueno. L'altra sera, per esempio, stavo sul lettone di Putin, no? Stavo in camera da letto. A un certo punto, lui sempre in salotto con la luce accesa. Sì. Gli ho detto, amo, vieni a letto, spegni i cartoni, vieni a letto, che è tardi ormai. Allora niente, io sono andata piano piano in salotto, mica stavo vedendo i cartoni. Ma che? Quello stava lì sul suo quadernino che scriveva. E scriveva, dico, ma amore, che stai facendo? Che stai facendo? Ci sono posto shock per l'Italia. Dico, scusa. Invece di scrivere 8 shock, di scrivere un intelligente, facciamo prima. Hai ragionato, hai fatto. Mannaggia. Sarà, lo so, tranquilla. Siamo qui, 800 24 00 24, la Zanzara su Radio 24. Prima che ci chiudano e ci mettono in galera, ancora pochi giorni, caro Parenzo. Poi è finito, è tutto finito. In galera, caro Galan, ci vogliono in galera. Qui siamo dei delinquenti. Devo preparare la valigia, dici. Siamo dei delinquenti, facciamo scherzi a tutti. Ci vogliono chiudere, è un dramma assoluto. Vabbè, caro Galan, lei chi vuole al Quirinale? Non ti vedo particolarmente preoccupato. No, però non sono preoccupato, perché se succede qualcosa facciamo una mobilitazione spaventosa che manco lei nemmeno può immaginare. Senta una cosa, ma le piace l'imitazione che fa della signora Pascale Virginia Raffaele? Non l'ho vista. Ah, non l'ha vista? Ma non l'ho vista. Altre volte l'aveva vista? No, no, mi è piaciuta la reazione della Pascale, che non si è scandalizzata né ha gridato. No, ah, però non l'ho vista, quindi non posso. Cioè, non è offensiva nei confronti della... Non l'ho vista, non te lo saprei dire. Ma... mi sembra che sia da donna intelligente il modo in cui la Francesca Pascale l'ha presa. Ecco. Ha sentito come chiama Berlusconi la signora Pascale? Quindi non posso dare. Certo. Ha sentito come chiama Berlusconi la signora Pascale? Come lo chiama? Il mio, che cos'è il mio? Il mio, no, il mio ragazzo. Beh, il mio ragazzo. Carino? Molto carino, però. Beh, ragazzo. Ragazzo, su. Vabbè, comunque, ognuno il mio, dice. Il mio, come dire, vista l'età, ragazzo. Sarebbe mio nonno, si potrebbe dire, mio padre. Vabbè, comunque, ognuno fa quello. È carino, lo trovo. Sì, alla fine è carino, alla fine è carino. Alla fine è carino. Oggi in Francia è stato il sì alle nozze gay, lei è molto contento, immagino. E sì, ma noi siamo l'ultimo paese al mondo ormai, è una roba. Sì, una roba, cioè, anche in l'Uruguay ci ha sorpassato, l'Argentina. Vediamo dopo l'Uruguay. È una cosa anche imbarazzante questa cosa. È imbarazzante, lo confermo. È una cosa anche imbarazzante. Dopo il Portogallo, voglio dire, finché si parla di Olanda, Svezia, Norvegia, si può anche capire. Ma stiamo parlando di confronto col Portogallo, l'Uruguay. Sì. Insomma, è imbarazzante. E devo dire che nemmeno questa volta ci siamo, perché non c'è una bella aria da questo punto di vista. E io invece sono ottimista stavolta. Beh, bisogna vedere quanto dura sto Parlamento, questo è il punto. Vabbè, questo sì. Questo io dicevo per questo, non perché non ci siano le energie, non ci siano... I grillini, per esempio, hanno presentato questi disegni di legge. Perché non li firma pure lei questi disegni di legge dei grillini? Perché io, così lo dico, ne presenterò uno mio con alcune diversità. Oh, bene, sarà... Anche perché dopo ci sia un confronto, insomma, ci sono alcune cose su cui non sono d'accordo, altre che sembrano più importanti di altre, vado più al sodo che non alla forma, per esempio, cioè ai diritti, alla questione dei diritti. Certo. Come ha detto oggi, fra l'altro, il Presidente della Corte Costituzionale, mica l'ultimo dei passanti, mica il Presidente dell'Arcigay, dice lei, qualcuno, no? Qualcuno che ne è uno di parte, qualcuno che ne sa qualcosa, no? Ma lei al Quirinale chi ci vede? Al di là della questione dell'Abbonino, di cui ha già parlato, eccetera, però il suo candidato ideale chi è? Mi dica la verità. Berlusconi? Il mio candidato ideale, proprio perché sembra fatto apposta per quel ruolo, è Gianni Letta. Vabbè, ma Gianni Letta è impossibile, lo sappiamo. È su, impossibile, dai. Perché? Ma è impossibile perché è troppo vicino a Berlusconi in questi anni, dunque non lo voteranno mai gli altri, su, dai. Ho capito, però diciamo, facciamo una cosa realistica. Vuole un nome che da condividere, no? Ne ho fatti due, anche se sarebbe meglio stare zitti, perché dopo, se non vengono eletti, ti danno anche di quello che porta sfiga. Ma io ho fatto Gianni Letta, che continuo a sostenere, perché sarebbe perfetto. Secondo Emma Bonino, ma sarà venuto anche il tempo di una donna, poi di una donna. Ma ho capito, ma la Bonino nel centrodestra, vedi, alcuni non la possono vedere. Allora fallo tu un nome. No, io che nome faccio? Finocchiaro, le piacerebbe? No, la Finocchiaro, no, ma dai, su, la Finocchiaro, 7 legislature. Cioè, ci vuole qualcuno, cioè pure la Bonino è 45 anni che sta in politica, signor Galan, come ci ha detto l'altra volta... Deve fare il Presidente della Repubblica. Sì, quello è vero, quello è vero. Un ruolo per giovani. Intanto non si è vista, non si ha traccia dei saggi, cioè non hanno lasciato grande traccia, questo volevo dire, questi saggi. Oggi no, tranne la telefonata. Tranne la telefonata udita, il resto, tutte queste proposte che hanno fatto, io veramente non capisco questo lavoro. Cioè è una cosa, per esempio una delle proposte è completare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ma che ci volevano i saggi? Ci volevano i saggi per sapere che bisogna pagare e la pubblica amministrazione deve pagare i cittadini? Servivano i saggi, poi ha detto ineliminabile un adeguato finanziamento dei partiti. Ma chi te l'ha detto che è inadeguato, che non si può eliminare il finanziamento pubblico dei partiti? Ma in questo caso sono opinioni personali, ma che vuol dire? Poi un'altra cosa è mantenere impegno dell'equilibrio di bilancio, ma tu ti rendi conto o no della follia? Cioè 15 giorni di buffonata per dire che alla fine bisogna mantenere i conti in equilibrio. Galan, come dire, bisogna... Galan, dica qualcosa lei, per favore. Beh, dica dico qualcosa, che in 15 giorni che cosa ci si poteva aspettare? No, d'accordo, però almeno... Ci sono proposte di buon senso, altre che sono fesserie, altre che sono assolutamente scontate. Ho capito, ma non ci volevano i saggi per arrivare a queste conclusioni. No, quello, è quello che è stato incredibile. Io non capisco che bisogno ci fosse dei saggi. Napolitano. Perché hanno fatto una buona base di discussione, si potrà discutere, si potrà, insomma, io lo credo perfettamente prima. Inutile. Certo, perfettamente inutile, perfettamente inutile. Scusi un attimo, i suoi amici leghisti, per tornare un po' su questioni i miei amici leghisti, sì. In particolare il governatore del Veneto Zaia e lo stesso Tosi ieri da noi hanno detto che in fin dei conti le previsioni del tempo in Veneto danneggiano il turismo, che è una cosa di una coglionata secondo me colossale. Io gliel'ho detto in faccia a Tosi ieri, ho detto guardi, questa qua è una buffonata, una stronzata, me lo dica chiaramente. No, invece lui dice no, in realtà è vero, anch'io i weekend quando parto mi dicono che le previsioni sono brutte, allora ci ripenso. Credo. Lei che è una persona ragionevole, ponga fine a questa buffonata. Beh, io sono uno che va a pesca, io vado a pesca, quindi mi preparo sul tempo meticolosamente, studiando bene tutti i siti. Sì. Devo dire che ci prendono, non sbagliano mica. Ma appunto, ma poi come Insomma, se cala il turismo, forse le colpe sono da qualche altra parte che non nelle previsioni del tempo. Anche perché le previsioni del tempo sono le stesse, erano fatte anche l'anno scorso, no? Quindi non è che l'anno scorso le abbiano fatte buone quest'anno con cui si fanno i confronti. Ma come si fa? Come si fa? Forse c'è qualche situazione un po' più profonda che determina il calo del turismo. Sì. Allora, però lei in conclusione, caro Galani, ci deve rivelare una cosa. I messaggi che ha ricevuto sulla signora Angela Bruno dopo la vicenda della Green Power, quella signora che ogni tanto ricompare al servizio pubblico anche ieri sera, ma non aveva niente da dire ieri sera, signora Angela Bruno, ho ricominciato a lavorare, ha detto però i problemi sono rimasti con la mia azienda, quella che fu sul palco con Berlusconi, si ricorda, no, in campagna elettorale. Quali sono sti messaggi che le ricevette? Neppure sotto tortura parlo su questo punto, che allora per davvero definirla lo sapevo che provocavi, ma non cado nella provocazione. Ma le ha ancora sti messaggi? E anche se fossi lì in studio con voi. No, vabbè, questo infatti ci credo che lei non cadrà e non rivelerà nulla, ma ce li ha ancora, li ha conservati? Non rispondo. Nemmeno questo, se li ha conservati non è il segreto di Fatima, se li ha conservati o no. Perché conservo tutto io. Ah, appunto, li ha conservati, ha visto mai dovessero servire per qualcuno. Cioè. Comunque la cosa è quella, in questi messaggi c'era la prova, così diceva Galan. Oh. Che lei si era divertita. Parliamo della Bonino, dei saggi. Non è dei saggi, ormai i saggi non esistono più. È contento di avere come capogruppo Brunetta? Sì. Sì? Sì. Ma non è perché è veneziano, secondo perché è originale, terzo perché ha fantasia da vendere. Ma è vero, che è molto cattivo, ha portato il suo staff, ha tagliato i fondi, ha fatto un inferno, ma o no? A me non pare. No. A me non a me tutto questo non sai, ma certo si è trovato di fronte a una riduzione di un numero significativo di parlamentari e quindi di staff. Le persone, gli uffici vengono attribuiti certo. In base alla consistenza del gruppo. Siccome non vabbè, ma uno di sinistra che lei piacerebbe al Quirinale? Uno di sinistra al Quirinale che lei piacerebbe? Sempre uno di sinistra? Sono già 21 anni che ce n'è uno. Ho capito, ma mettiamo che si spunti fuori nel compromesso uno di sinistra, al di là della Bonino, chi le piacerebbe? Gianni Letta. Vabbè, Gianni Letta non è di sinistra. È pazienza. D'Alema le piacerebbe? Ma no. No. Ma Violante? Violante? 28 anni con uno espresso dalla sinistra. Oh, ma intanto anche le quirinarie sono fallite, Parenzo. Queste quirinarie online. Quella era la pagliacciata, altro che le previsioni del tempo. Quella era la pagliacciata. Questa è la notizia più bella del giorno. Sì, le quirinarie mezze fallite adesso in realtà sono... Ma l'altra cosa che mi meraviglio, che potresti farglielo sentire al professor Galan. Lo scazzo micidiale di ieri sera del professor Massimo Cacciai con la signora Madia. Solo puttanate dite. Senti, adesso facciamo un esperimento. Dopo la pubblicità, prima la pubblicità, poi facciamo un esperimento. Resti lì, Galan, che si divertirà come un matto. Un attimo. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Siamo come lei, siamo come lei. Per disturbare. eccoci qui, 800 24 00 24. Lucio, provincia di Milano, buonasera. Un attimo Galan, no, torniamo niente, subito. Niente, Lucio, provincia di Milano, provincia di Rimini, mi trovo a Milano per lavoro. E vabbè, è uguale, tanto, sì, non... va bene, uguale. Ma sì, sono in diretta? Sì, è fino a prova contraria, sì, un attimo solo. Dopo, riproviamo dopo. Lucio, allora, che voleva dire? Mi riferivo alla telefonata di Emilio Fede. Sì. Siccome sono uscito dalla fiera, ero in macchina con gli amici e allora pensavo che avesse, penso che abbia dato una piccola bugia, però non ho ben capito che se Campione non lo frequenta da 5 anni o 25 anni, se 25 anni è una piccola bugia, perché io c'ero una sera. Sì. Dovrebbe un diverbio anche con un altro giocatore al tavolo dello Scimen, capito, no? Che gli lanciò. Vabbè, adesso chi se ne frega di quando, no, Emilio Fede. Vabbè. No, ma però voglio dire, non deve dire se dice 5 anni che non lo frequento più e non vado più. Io lo so perché io li frequento quegli ambienti e probabilmente sicuramente non è 25 anni, ma è molto molto meno. Era solo per quello, una puntualizzazione, non è che Vabbè. Saro da Messina, Saro, dica. Sì, buonasera. Vada. Allora dico, si può fare qualche battuta seria o è proibito? Ma lei può fare quello che vuole, anche tirarmi le cose addosso, anzi qualcuno già l'ha fatto nei giorni scorsi. No, vabbè, chi sono, siete abbastanza bersagliati. Vabbè, allora Saro, un attimo solo. Su, dai. Dai. Quello che sappiamo. No, un altro. È un altro. Vabbè, niente. Galan, immagini Berlusconi al Quirinale, cosa accadrebbe? Niente. Come niente, su? E cosa accadrebbe? Ma Berlusconi sarebbe un casino pazzesco. Ma perché sarebbe casino? Sarebbe un casino perché lo so, verrebbe a qualcuno, verrebbe un mal di fegato, la cirrosi epatica immediata, la pazienza. Ma tanto è un'ipotesi impossibile. Io sarei molto contento per vabbè me. Lei sì, certo, lei sì, sarebbe, come dire, anche la giusta conclusione di una parabola politica, secondo lei, giusto? Beh, sì, insomma, dopo sai, ognuno può pensarla come vuole, ma è che Berlusconi sia stato uno dei grandi innovatori della storia, sì, politica nel dopoguerra. Cosa meriterebbe, insomma, secondo lei, a questo punto Berlusconi? Cosa meriterebbe dal punto di vista politico? Che tipo di conclusione, di premio, di happy hand? Ma non... Una cosa adeguata, su. Qua mi cogli di sorpresa. Non so, si meriterebbe di un po' meno livore nei suoi confronti. Vabbè, ma si questo meriterebbe di poter come carica caricare... No, ma come carica come ruolo. Ma no, come carica non è una questione di cariche, ma si meriterebbe di poter di non dover subire quello che lui ha subito e che nessun altro sarebbe stato in grado di reggere. Vabbè, quello. Ecco, quello meriterebbe un clima un po' più disteso, meno odio. Meno. Ma qui no, non è. Ma meno... è una roba inammissibile quello che è successo e a cui abbiamo assistito. Comunque, qui mandano in onda le interviste con le storie che Berlusconi è andato con le minorenni, caro Galan. Il clima è questo. Io credo alle sentenze passate in giudicato e qualche volta, ahimè, neanche a quelle. Manca quello. Si è sentito di tutto, insomma, non... A presto. Buona serata. Saluti. Ciao, traffico. Con Saro da Messina, via. Sì, Cruciani. Parenzo dov'è? Ma è qui, dove vuoi che sia? Parenzo, buonasera. Buonasera. Parenzo, io voglio, ti ho sempre beccato per quando sono intervenuto, però stasera voglio spezzare una, due, tre, anche quattro lance in tuo favore. Perché? Tu che ha fatto? No, minchia, dai, è sempre bersagliato, poverino. Ma da chi? Ma da chi? Da tutti questi cazzo di Brancaluscone che telefono, specialmente i romanacci, qua e là, gliene dicono tutti coloro. Ah, Riccardo, dice lei, Riccardo, va bene. Riccardi e tanti, perché, però Parenzo alla fine è l'anima nobile. L'anima nobile della trasmissione, mentre lei, Cruciani, rimane sempre quella narcoide, quella così leggerina di testa che vuol fare tutto ma non vuol mai prendere impegno seriamente, no? Ma in che senso, scusi? Ma perché lei così si diverte a strappare qua e là, però non vuol metterci mai un pochettino di impegno, profondere, sposare una causa per il bene comune, detto in parole povere, va, come diciamo noi qua in Sicilia. Cioè? Fa parte forse della sua struttura psicologica e ha questo tipo di vigliaccheria intellettuale. Ma quale vigliaccheria? Nei confronti di chi, scusi? Nei confronti di se stesso, perché non vuole prendere mai posizione, perché non vuole prendere... Ma su che? Ma che dice? Ma ad esempio, invece di portarci al microfono quel tenente di Sgarbi o quel lutum cloace di Emilio Fede, indegna figura di questa Sicilia infame, sì, mentre c'è anche la Sicilia bella, sì, va bene? Sì. Perché non fate discorsi abbastanza più seri e porta altra gente a parlare di cose costruttive, dove ci si può anche possiamo parlare di cose costruttive se vuole, esatto. Invece di andare a parlare e fare parlare tutte le tele ciccioline, o come grazie a Franco Battiato abbiamo sdoganato l'altro termine, le troie, alla cui voce lei subitamente si entusiasma, ecco, cambia atteggiamento, porti persone che lavorano, porti gente, donne che fanno le lotte quotidianamente sulla vita, sulla strada, ci si può anche scherzare e ridere con loro, ma non mi porti per cortesia quest'uomo su cloace, sì, continuamente a farci sentire Vittorio Sgarbi, Emilio Fede, e l'onorevole Scilipoti, minchia, che conosco purtroppo personalmente. Ma quella è una vita che non abbiamo, ormai ci snobba, un attimo solo. Vabbè. Via, Marco, provincia di Fermo, dica. Sì, buonasera Cruciani, salve. Vada. Vabbè, pazienza, senta, dica. Intanto complimenti per la trasmissione. Vada, non me ne frega un cazzo, dica. Ecco, senta, le volevo dire una cosa solamente. Mi piace la vostra trasmissione e tutto. La cosa che mi dà molto, ma molto fastidio, è quando cercate in ogni modo di sdoganare quello che succede con le signorine dei vari Berlusconi di turno. Che sia Berlusconi che sia qualcun altro, a me non me ne può fregare di meno. Che sia reato o che no, a me non me ne può fregare di meno. E allora? Però non mi piace il fatto che questo lascismo e che quindi tutto questo è permesso. Lascismo? Sì, lascismo. E quindi tutto è permesso. Ma quale lascismo? Non esiste la parola lascismo. Vabbè, la dica lei la parola più ma più qua, al limite è lassismo, ma che c'entra? Lassismo. Da come ne parlate, dal modo in cui ne parlate, risulta sempre che è una cosa che può andar bene, voglio dire, che non ma cosa può andar bene? Permessi, tutto, ma chi ha detto? Ma chi l'ha detto? Io non ho detto questo, ho detto che politicamente certamente è sconveniente il fatto stesso che abbia conosciuto delle persone, che abbia fatto delle feste, eccetera, dopodiché non esiste reato, cioè, no. No, ma per carità, se è reato o non è reato, a me non me lo può provare di Cruciani, per quello non me ne può fregare di meno, ci penserà qualcuno, voglio dire, ci sono tanti pagati da noi, addetti a tutto questo, voglio dire, quindi... Non me ne frega nulla, però il fatto che, cioè, le faccio un esempio molto pratico. Sì. Se io ho una nipote di 16 anni e mi comincia a dire forse è meglio che invece che fare l'università e diventare ingegnere vado ad allargare le gambe. Ma che c'entra questo? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Non è che la conseguenza di quello che abbiamo visto e sentito. No, ma mica perché siete solo voi, è un senso generale, cioè, in cui sembra che tutto vada bene. Che tutto va bene. Ma non ho detto che tutto allora. Ma non è sdoganiamo, qui non è dobbiamo fare. A parte che ognuno ha la sua sensibilità, io sono un po' libertino da questo punto di vista, non ho grandi remore. No, guardi, la moralità, per carità, no, teniamola da parte, a prescindere dalla moralità. Vabbè, da, Francesco da Cuneo, buonasera Francesco. Buonasera, volevo dire, io non sono tanto d'accordo con la posizione di Parenzo sulle, sulle droghe leggere, l'intervento che ha fatto prima mentre parlavate con Galan, un po' così, un po' soft, no? Cioè, come soft? Sì, Parenzo ha detto, ma sì, non mi faccio più le canne da qualche tempo. Io ho voluto intervenire perché secondo me questa cosa non bisogna sottovalutarla tanto. Io sono al ma cos'è che non dobbiamo sottovalutare? Non ho capito. Ma il consumo di marijuana, le droghe leggere, soprattutto per i più giovani, cioè, sono pericolose. Guardi, glielo dico perché io quando ero un adolescente ho... Come tutte le cose. Io ho consumato droghe leggere, e però guardi, non bisogna sottovalutarlo, cioè anche il discorso della legalizzazione io sono in parte d'accordo, però è un po' complesso, no? come complesso. Discorso vabbè, quindi... è tutto complesso, sì. Senta Francesco, però non è che dobbiamo metterci qui adesso a discutere, è un discorso complesso. Ho capito, io sono per la legalizzazione delle droghe leggere. Che cosa vuole fare? Mi vuole crocifiggere? No e allora punto, basta, io sono a favore della legalizzazione delle droghe leggere, legalizzazione. Punto. Basta, cioè, non è che se uno oggi si vuole procurare una droga leggera non ha la possibilità di farlo, ha voglia. Cioè, chiunque, un ragazzo di 16, 17, 18 anni, se vuole oggi si procura 110, 50 canne, cioè, è la stessa identica cosa. Però ha capito o no? Passare, sì, sono d'accordo, però far passare un po' il discorso che è una cosa, cioè come un bicchiere di vino. Ma io non ho detto che un bicchiere di vino, non ho mai detto una cosa del genere, dico semplicemente che oggi uno se ne può procurare come e quanta ne vuole, punto e basta. Sì, e questo dico, poi fa male, fa bene, c'è una discussione eterna che certamente non riprendo qua. Ma è con noi Rocco Siffredi, buonasera Rocco. Come va? Bene, tu? T'ho beccato pure in aereo, t'ho pizzicato in aereo, tu lo sai. Parenzo, l'ho incontrato con la moglie, tutto preciso, tutto precisissimo. Ma io ho visto che hai fatto anche la nominata, ma sono un bravo ragazzo. Ma lo so, tutto preciso, mano nella mano. Bravo ragazzo che usa molto, non cosa? Mi viene la rima. Ma va, che c'entra, mamma mia, come sei banale. No, non mi viene la rima. Sei di una banalità, guarda, di una banalità spaventosa. Il signor Rocco. Allora, come va? Tutto bene? Bene, attualità. È attualità. Scusi, no, per attualità volevo capire questo. Lei è mai stato ospite del signor Barisoni, signor Siffredi, ad esempio? No. Signor Barisoni? Sì, è un conduttore di una trasmissione di economia. No, ma che ci deve andare a fare? Potrebbe spiegare come funziona l'economia in Ungheria? Guarda che l'economia è un macello pure qui, eh. Ma guarda che, signor Siffredi, tu lo tratti come cioè, non è che un l'ultimo degli arrivati, cioè. Ho chiesto se... Cioè, è un imprenditore. È un imprenditore. No, non mi occupo di economia, preferisco cose molto più divertenti. Esatto. Senti, signor Siffredi, la cosa che volevo capire, non bisogna pensare solo ai soldi, tanto oramai vedi, se io mi ero abituato ai soldi, adesso vivrei con una crisi profonda anche mentale. Per fortuna che non mi sono abituato a vivere con i soldi, se ci sono mi fanno piacere, se non ci sono uguale. Cioè, ci stai dicendo, Rocco, che sei mezzo rovinato pure te? Ma no, ma io non ho mai pensato di... sai qual è il problema più grave, secondo me, che la gente... Sì. Quelli che si attaccano ai soldi e che poi non finiscono mai di dire è abbastanza. Entri in una routine, mo state parlando di droghe, no? No, quello è vero. E quindi, secondo me, bisogna accontentarsi nella vita. Ma tu ti sei mai drogato? Mai in vita mia. Manco, manco le canne? Dico, ho provato una linea, sai, il porno è così come il mondo dello spettacolo, quindi ho provato in una sera a Las Vegas di oltre 25 anni fa una linea di cocaina, se mi hanno fatto provare la cocaina, non lo so, sono stato 15 giorni a letto male. T'hanno detto che era la cocaina però? Ma hanno detto che era cocaina, sì. E sei stato male dunque, mai più? No, mai più, perché io sono anche un po' allergico a tutto quello che fumo, se uno mi fuma vicino dopo viene il dolore di testa, tutte queste storie qui. Devo dire che il mio fisico mi ha anche aiutato, perché avendo una sorta di rigetto, quindi alla fine... Senti, ma hai visto che cosa è uscita fuori sta cosa di Berlusconi? Tu devi dare la soluzione a Berlusconi, a parte che non è reato fare sesso con una ragazza che ha più di 16 anni consenziente. Ancora. Diamo la soluzione, no, questa cosa di Noemi Letizia a Berlusconi, dai la soluzione a Berlusconi se ha fatto sesso. Ma io l'ho sempre data a lui. No, ma in questo caso, nel caso della signora Letizia. Ma secondo me, purtroppo, lui si è lasciato un po' fregare da queste due, ma per quello che faceva fuori dal suo mondo l'ho sempre assolto, ma non l'ho mai condannato, ecco, diciamo. Qualcuno mi dice che tu hai fatto una proposta a, di venire a lavorare con me. No, no, di dedicarmi 24 ore di seguito a qualcuno di recente. Vale sempre la proposta che mi hai fatto di dedicarmi 24 ore di seguito? Te la ricordi a chi hai fatto questa, questa proposta? Questa proposta? Minchia, mi becchi in un periodo dove sono un po' stanco, forse. Il giorno della festa delle donne. A chi l'ho fatta? Che ne so, a una giornalista, evidentemente. Ah, sì, sì, allora può darsi che lo so di chi stai parlando. Della giornalista numero uno in Italia, che scrive per Libero. Sì, numero uno. Sì, per certi aspetti. Selvaggio Lucarelli lo sa, la stima è quello che c'è ancora di più, perché lei è veramente selvaggia, come me. In che senso? Mi reputo un animale. Perché è una donna che ha molto, secondo me, lei ha un sex appeal vero, innato, sa giudicare. Ma siete stati insieme? Dagli occhi, da tutto, quindi... Siete stati insieme? Mai. Mai. Mai, però, allora non ti dispiacerebbe, mai, però. Neanche incontrata, mai. Non ti dispiacerebbe, però. Ma assolutamente no. Vabbè, tanto con te non è che voglio dire. Cioè, no, tanto con te cosa? Sei stato, dico, una volta hai detto che sei stato pure con le vecchie, con le cose. Allora, tu mi dici. No, aspetta. Come no? Aspetta. Io ho sempre detto che per fare il porno star devi essere capace a fare dalla bionda alla bruna, bravo, dalla grassa alla magra. Bravo. E l'età non la devi mai contare. Mai. Allora, professionalmente è una storia. No, ma però mai detto che per un periodo, ma hai detto che per un periodo dopo hai deciso. No, aspetta, quando ho smesso di lavorare non sono stato solo con le vecchie, sono stato con di tutto di più. Appunto, dico. Ma allora quella è un'altra storia, ero completamente inebetito, ero completamente sotto bot. Beh, però comunque è vero che gli hai promesso questa cosa di fare 24 ore di seguito o no? No, io gli ho detto a lei che con lei minimo bisogna andarci per 24 ore di seguito, perché c'è molto, molto da apprezzare. Molto da lavorare là. Da lavorare, ma da apprezzare soprattutto. Sai, quando... Ma se non l'hai mai vista, non l'hai mai vista. A te è mai capitato di incontrare una donna che dopo un quarto d'ora, 20 minuti ti dice... sono venuta, basta, non ho più voglia, adesso sono... cioè, a me è capitato anche questo, quindi voglio dire, c'è pure chi, ho letto addirittura che con 10 minuti si hanno rapporti sessuali completi, ma sì, e io mi domando, ma come fa? Ma io ogni tanto lo sai che invece dopo un quarto d'ora mi annoio. Bravo, allora lì è un problema, man, un gran problema. Lo so. Non riesco a seguirvi in questa augusta conversazione. Allora, abbiamo la borsa, poi torniamo subito, voglio fare una sorpresa a Rocco, un attimo. Eccoci qui alle 20.37 in diretta dall'Ungheria, Rocco Siffredi alla Zanzara. Sono sopravvissuto alla pubblicità, fra poco ti faccio una sorpresa, però prima mi devi dire una cosa, ma allora io leggo solo quello che c'è scritto sul Libero oggi, sul Libero, sul Fatto oggi, no? Questo, sai, un'intervista al servizio pubblico di ieri, no? Questo Francesco Chiesa Soprani, che ha detto di Berlusconi a Noemi Letizia, mi spiegò Noemi Letizia che quando era minorenne a Roma ci fu un rapporto consenziente, un rapporto orale consenziente tra Berlusconi e... poi ci sono state querele, cose del genere. Ma tu sei stato con un sacco di minorenni in vita tua, no? Quando ero nell'età giusta, diciamo, per stare con le minorenni, adesso ne sto molto lontano. Molto lontano. Anche se ti dico la verità, mi scrivono da tutta l'Italia, non da tutto il mondo, e tante minorenni. Sulle email, però ci sto molto, molto, molto lontano, perché ci sono mille motivi per la quale uno deve stare lontano. Vabbè, quello è chiaro. In alcuni paesi la legge, poi che... No, ma in generale, allora, a parte il paese, a parte il fatto che è vietato, a parte che magari, ecco, poi tra virgolette, a me mi butterebbero le chiavi se mi beccano che non è minorenne, quindi non è il caso proprio in assoluto. E numero uno, io per principio, ecco, una volta, tanti anni fa, hanno provato a mettermi una minorenne su un set. E perché? Per mandarmi in galera, per fregarmi. Sì. Era un po' un discorso di concorrenza. E da allora ne sono rimasto abbastanza scioccato, tra virgolette, per la cattiveria e il gusto di avere una hanno così cercato... profonda. Con i documenti falsi, attenzione, perché noi non è che vieni su set e lavora chiunque. Sì. Però ci hanno provato perché sanno che era l'unica vera arma per farmi fuori. E quindi erano dei francesi, avevano convinto sta ragazza... Poi 17 anni, era proprio anche perché sono una ragazza troppo minorenne, si vede, invece una diciassettenne, ecco, Noemi, ritornando al presidente, io personalmente, guardandola, sembra una donna di 25 anni, cioè, ma a 18 anni, sembra di 25-26 anni, quindi, ma sì, cioè, ragazzi, bisogna anche dire, minorenne a cosa assomigli e maggiorenne a cosa assomigli. Cioè, lo assolvi, questa qui, dici, nel lo assolvi. Paese suo, ma questa qui nel paese suo, secondo me, è iniziato molto tempo fa. Quindi voglio dire, a fare che dici? A fare quello che fa, quello che avrà fatto con Berlusconi. Quindi, senti, ma di questo Parlamento nuovo chi ti piace di più? C'è qualcuno che ti piace così a prima vista? Qualche deputata nuova che vedi in televisione ogni tanto? Qualche grillina. Grilletto non mi dispiace, Grillina Grilletto che porta poi sempre, sai. Però ti dico, la vedo un po' moscia, sia lui che l'amico suo, tutti e due. Ah, se ma Grillo, chi? La Lombardi, allora, Grillo, dici? Secondo me che è stato veramente la rivoluzione degli ultimi 20 anni, sì. Oltre al presidente. Poi alla fine è arrivato lì e chi si è messo lì davanti a rappresentarlo? Lui che è un'esplosione vulcanica. Ha portato queste due mezze seghe lì. Cioè, sedu calzette così. Ma no, ma che dico? Ma lui che se ne va in giro con sta telecamerina e riprende qualsiasi. Ecco, la cosa che mi fa cagare, te lo dico apertamente. È lui che dovunque va con sta telecamerina a fare filmatini da mettere sul web. Cioè, ma mica stanno in vacanza questi ragazzi. Questi sono venuti per risolvere i problemi. Scusa, quella è la Lombardi, non ti sembra? La Lombardi, ecco. Ho letto a destra e a sinistra che la gente gli dà idee di feticismo, ma ci vuole tanta fantasia, però è stata pure lei. Su questo non c'è dubbio. La Moretti ti piace invece? Siamo Moretti. Moretti, prego, me la introduca perché. Ma non lo sai. È la portavoce di Bersani. No, una di quelle che lavora con Bersani in televisione. Ce n'è una di portavoce di Bersani, è bellissima quella donna. Ah, quella l'hai vista allora, Alessandra? È molto bella e molto pimpante. Ecco, quella doveva lavorare per Grillo, secondo me. Cioè, doveva fare la portavoce di Grillo. Vabbè, molto più spigliata, molto più. Bella pure, no? Molto bella. Molto bellissima. Bella. Tipo... Molto di classe. Molto di classe, molto di classe. Non tattizzato per niente, no? Poco. No, molto, molto. Molto. Anche. Molto, anche. Vabbè. Non si ferma di fronte a nulla. No, no. Lo sai chi c'è con noi? No. Chi? Ilona Staller, candidata del Partito Liberale al Comune grande di Roma. Ilona, grande Ilona. Allora lei mi capisce. Ciao Ilona, come ciao, stai? Ciao, buonasera, ciao. Senti, buonasera. Ilona, ma io ho appena letto TGCOM che non fai l'amore da 2 anni, cioè sesso, amore, come vuoi. A noi ce l'ha detto ieri. Io veramente non volevo parlare di sesso, volevo parlare che sono candidata. Vabbè, questo lo sappiamo. Ritiro, me lo ritiro dentro. Vista le elezioni comunali a Roma. Vabbè, Ilona, non è che ce ne fai il pardone politico, su. Ho capito. Ilona, il problema è Enzo Palumbo, che è il presidente. Vabbè, ho capito. Ilona, state zitta un attimo. Ilona, il problema è che quando mi chiamano i ragazzi della Zanzara da me vogliono altro, capito? Non mi fanno parlare di politica. Ma come no? Come no? Ogni tanto. Mi fanno parlare solo di sesso. Scusa un attimo, Ilona. Possiamo parlare di Porcellum, ma non della legge elettorale. Porcellum, ma quanti film avete fatto insieme? È veramente un Porcellum. È intenso che la gente deve ancora votare Porcellum. Non ci fa la lezione su sto posto. Ed essere nominale. Vabbè, io voglio capire una cosa. Ilona, quanti film avete fatto insieme a Rocco? Senti, ma io... Mi avete richiamato per parlare di sesso, ma dai. Vergogna, ma dai, su. Poi parlate anche di minoretti, a parte che insomma io vorrei parlare intanto dei problemi del ma che ce frega a noi nel carcere italiano numero uno. Ma non ho capito che cosa dici uno. La sessualità nel carcere italiano assolutamente ha la sua importanza. Io ho fatto una proposta di legge, ma pensavo avessi fatto un film sulle carceri, sicuramente l'avrei fatto un film sulle carceri. Ma dice che non fai, ma è possibile mai che Rocco, che Ilona non fa sesso a 2 anni? Tu ci credi a questa storia? Ma guarda che tu proprio ci pigi. Aspetta Ilona, fai rispondere Rocco. Sono tornato appositamente per voi. Sono andato in un discount a fare la spesa rapidamente per i miei candidati, per me. Che t'hanno detto al discount? Corsa per parlare di politica. Un attimo, costa politica. Partito liberale italiano. Ma che partito liberale? Dobbiamo raccogliere le firme. Ma che firme? Ma quali firme? Invito anche te, andiamo tutti a raccogliere le firme. Ma è sempre stata così, Rocco, Ilona, è sempre stata così pedante, faticosa. La vita bella, perché la vita bella, e dobbiamo farla anche peggio. Com'era sul set, Rocco? Ma era una grande star, io l'ho conosciuta che era già una super grande star, era, sì. Quindi dico la verità, per tantissimi anni, devo dire, io ho sognato, ho fatto molti sogni su Ilona di incontrarla, molti sogni erotici, mi sono dedicato tantissimo. E lei, devo dire, che è stata una delle più belle al mondo, eh? Hai capito? Che ho, con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Hai capito, Ilona? Sì. Ma è molto carino, lui è veramente dolce. Però... No, vabbè, Ilona, dico la verità, è stata una delle... E ancora oggi, per l'età che hai, secondo me dai tanti punti a tante trentenne. Vabbè. Rocco, tu ci vieni a raccogliere il film? Ma che gli frega, Rocco, si freddi del Partito Liberale, basta con queste firme. Sei una persona che comunque ti piace la politica, insomma. Ma che sì, vabbè, ma lui no, è... Io preferisco le politiche, niente, le politiche, più che alla politica. Mi voglio dedicare io, se rientra il Presidente al Parlamento, cioè al Parlamento, scusami. Andrea Ladillo. Sì, vabbè. Abbiamo... Il Ilona, ma che c'hai un disco? Sì, Rocco, no, il Quirinale. Al Quirinale, chi vorresti al Quirinale, Rocco? Parlo con Rocco. Io faccio il casting per Berlusconi. Cioè, no? In che senso, scusa? Lì seleziono tutte le persone giuste. Vale, no, l'hai mai fatto il casting per Berlusconi, no? Magari. Gli selezionerei proprio il giusto, il top. Ciao Rocco, a presto. Ma lui c'è, bravo, eh. Saluto a tutti. Ciao Ilona. Ciao caro. Ciao. Ciao, traffico. Ilona. Come? Ma ti piacerebbe parlare con Marco Pannella? Magari. Allora facciamo guarda così. Guarda che noi insieme con Enzo Palumbo abbiamo... Vabbè, basta con questo Enzo Palumbo, però. Aspetta favore, Ilona, un attimo solo. Ma tanto c'è tempo da qui alle elezioni. Se tu cominci adesso a attaccare... No, perché stai zitti di quello che vorrei dire. Un attimo, sai. Sì, lo so, ho capito, a però... A volte dico anche delle cose intelligenti, ma certo, sai? Ma abbiamo tempo, ci abbiamo da qui al 26 maggio. Magari qualcuno mi giudica anche da qui male, al 26 però... maggio, ci abbiamo un sacco di tempo. Un attimo, Ilona, io vorrei capire una cosa. Adesso tu squilla il telefono, parla direttamente con Marco. Sì. Facciamo il telefonino, parla direttamente. Ma non è che sia un finta Marco Pannella. No, è vero, vero, Marco, vero. Un attimo, parlaci tu. Ok. Digli, perché hai sfasciato lo studio della Zanzara? Diglielo. No, non dico queste cose. Sì, tu. Diglielo, dai. Parlaci, io non parlo. Non so se risponde, Ma sì che risponde. Sì, risponde. Madonna, sì. Mi vengono le palpitazioni. No. Risponde che lui è radicale, è liberale. Vedi che non sta rispondendo, Madonna, mamma mia. Vabbè, ho capito, ma stasera... Ma è dolce, Marco, guardate. Beh, che dolce, voi non capite, insomma, niente. Ci ha spacciato lo studio, sì, dolce, certo. Vabbè, ve l'ha spacciato, vuol dire che qualche cosa avrai pur fatto, sì, eh. Sì, qualcosina ho fatto. Sì, cosa hai fatto? L'hai fatto incazzare? L'ho fatto incazzare, sì. L'ho fatto perché incazzare. Perché ti ricordi quando dicevi... che è un grande oratore, un grande politico, è una persona che secondo me è... Sì. Pronto? Marco, sono Ilona. Vabbè, è andata così. L'hai chiuso te? No, l'ho chiuso io, è caduto, no. Lui, l'ha buttato giù. Richiama subito. Richiamiamo, dai, su. Dai, su, richiamiamo, sì, però poi si incazza. Non può essere che... No, era lui, solo che poi... Ti ricordi quando lo chiamavi Cicciolino Pannella? È Cicciolino Pannella rimasto, però noi abbiamo con il presidente del Partito Liberale... Liberale, sì. Ancora come liberale. Ecco, rispondi. Oddio. Ah, che fatica. Ma non può essere che a quest'ora magari impegnato, che magari ha dei... Vabbè, Ilona, ci sentiamo la prossima volta. A presto, ciao. A presto, ciao. Luca da Genova, buonasera. Luca? Pronto? Vada, dica. Pronto, buonasera. Ma senta, guarda, io non credo alla storia di Noemi di qua di là, perché io sono anni che ho una relazione d'amore con Berlusconi. Lei ha una relazione d'amore con Berlusconi? Sì. Ma che dice? Sì. Su, dai. Secondo me le ragazze le pagherà, ma sono amiche, le pagherà a care per quel motivo lì. Mm. E senta un attimo, volevo chiedere una cosa, ma senta un po', ma il presidente Napolitano si è accorto 80 anni dell'evasione, l'abusivismo edilizio, la speculazione, perché a me st'Italia qua, fatta da questa gente qua... Ma che c'entra adesso il presidente qua? Napolitano, no, con l'abusivismo e la speculazione? Fare. Vabbè, ma lei... No, ma siccome... Io vivo e lavoro nella città dove vivo vicino, lavoro vicino alla mafia, all'andrangheta, alla camorra, che lavorano per le istituzioni. spesso e volentieri. Sì. Io mi chiedo, io, come cittadino normale che da coglione mi sono aperto una attività per lavorare. No, mi chiedo, ma non è meglio rinnovare il contratto Stato Mafia, almeno lavoriamo meglio? Perché grazie, mafia... Silvia da Milano, grazie. Buonasera Silvia. Bah. Silvia. Sì, ciao. Ciao Giuseppe. Dica. Allora, volevo dire una cosa interessante. C'è un equivoco giuridico che pochi sanno, cagionato dallo stesso codice penale. L'articolo 609 quater, che è la cosiddetta corruzione di minorenni, che si chiama atti sessuali con minorenni, in realtà non si riferisce ai minori di 18 anni, ma ai minori di 14 anni. E dunque? E quindi fa reato chi va con una che ha meno di 14 anni. Se uno va con una che ha 16 anni, va benissimo, consenziente ovviamente. In questo caso infatti non è che si sta parlando di reati, No, sì, però se ne parla come se Berlusconi avesse commesso un reato. Una cosa è una cosa morale, una cosa è una cosa che è reato. Tutti sono convinti che sia reato, no? Certo. No, ma è vero. Anche di concussione. Ma che c'entra? Quello è un altro discorso. In quel processo là. Sì. No, ma non, in questo caso non c'entra il processo, dai, su. C'entra la bugia che ha detto dal punto di vista politico. Sì, vabbè, la bugia. Sì, tutto uguale, tanto chi se ne frega. Carlo da Pavia, buonasera Carlo. Buonasera, un saluto a Cruciani e Parenzo. Dica. E intanto un saluto anche a Rocco Siffredi, che è stato il maestro di tutti noi tanti anni fa. Beh, maestro, vabbè, adesso addirittura il maestro di tutti noi, mi sembra un tantinello. Eravamo ragazzini. Esagerato, comunque, vabbè. Insomma, per chi l'ha visto all'opera, diciamo, no? Ma uno in genere lo dice, che so io, di Ilvo Diamanti, di storici. Che c'entra Ilvo Diamanti adesso? No, ma lo so, uno in genere esordisce alla conferenza dicendo: guardi, Galli della Loggia è stato maestro di tutti noi. Qui invece qui il signor Siffredi è maestro di tutti noi. Basta, bisogna rimettere un po' le cose a posto, però, no? Vabbè, allora? Io volevo fare un paio di proposte scherzose, sì, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio o anche, sì, il Presidente della Repubblica scelta. Beh, intanto come prima proposta farei il Papa, visto l'entusiasmo che ha suscitato in tutti quando ancora non era, come si dice, salito. Mi sembra un tantinello inapplicabile questa cosa qui del Papa. Beh, però penso che sarebbe gradito a tutti, no? Il Papa Presidente del Consiglio, nessuno si opporrebbe. Papa Presidente della Repubblica, dice lei. Vabbè, comunque, Presidente della Repubblica. Una stronzata, su. Poi? Sì, certo. Una poi? Seconda proposta potrebbe essere un reality show tipo l'Isola dei Famosi. Mettiamo sull'isola Bersani, Berlusconi. E vediamo chi li sceglie, no? Dendola, comprese le nomination, sì, poi il televoto e tutto il resto, chi alla fine, superate le varie prove, sopravvive all'isola, diventa Presidente del Consiglio per diritto. Non passerà nessuna di queste due proposte. Ma Marco, ci ha messo a pensare. Marco, queste, provincia di Piacenza. Buonasera, Marco. Sì, pronto, buonasera. Dica. Mi sono fermato per telefonare. Buonasera. Io ho chiamato perché ho votato Grillo, ho votato alle parlamentarie, sì, e è stato estremamente eccitante, più di quanto avete raccontato sinora. Cioè, hai capito, le quirinarie o le parlamentarie? Non ho capito bene. Le quirinarie. Ah, le quirinarie. Sia ieri sia oggi. Sia oggi, benissimo. Chi ha votato? Ho votato per una donna. Cioè per chi? Anna Maria Cancellieri. Sì. Vabbè, ma non c'è niente di strano. C'è un'iniziativa di un partito, di un movimento che attraverso internet suggerisce un nome da mandare al Quirinale. Secondo me non ha nessun tipo di... Non ha nessun valore. Cioè, ma no, ma certo che non abbia nessun valore. No, nessuno... secondo me, chiedo scusa, un conto è il valore, ma io volevo, sì, ma è un significato politico, niente, no, è una che roba c'entra? Per fare un sito. No, volevo raccontare, invece volevo dire che ho sentito la responsabilità del voto. Ha sentito, sì, la responsabilità, bravo, del voto, votando per le quirinarie su internet. Vabbè, ma lei c'è, sì, qualcosa che non funziona, insomma. Forse siamo, guardi, queste là, cose, no? queste cose qui la democrazia, la democrazia via web non può funzionare, cioè questo è, no, evidente, sono tali le manipolazioni che ci possono essere, no, come oggi è dimostrato da questa storia degli hacker. Il web è una grande forma, un grande strumento di discussione, di diffusione della libertà di pensiero, delle opinioni, tutto quello che vuole, una grande fonte di guadagno per un sacco di gente, compreso Grillo e Casaleggio, legittimamente, ma non può essere usato come strumento democratico, è incontrollabile, non è possibile, ha capito? Cioè non è possibile usarla come uno strumento per scegliere il Presidente della Repubblica. Ma mi sembra chiaro, cioè, tant'è che oggi è dimostrato che qualcuno è intervenuto, un hacker, degli hacker, e hanno distrutto tutto, chiuso. Poi si ricomincia. A domani 18:30, anzi lunedì 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.